Amici cari, in carrozza! Oggi si parte per un viaggio indimenticabile. Volete sapere dove andiamo? Nel Regno delle Meraviglie! Si tratta di un minuscolo paese grande quanto una pagina di un giornaletto. Ci siamo ragazzi! Proprio un giornaletto di quelli da voi conservati tanto gelosamente, vero Carletto? Immaginate che tutti i personaggi che in essi trovate disegnati diventino, come d'incanto, di carne ed ossa come voi e insieme formino un piccolo paese, tutto per loro, dove il sindaco e niente meno che Paperino. Già vi leggo negli occhi una voglia matta di andarci. Sì, sì, potete portarci pure i genitori. E allora in carrozza. Su partiam, un viaggetto insieme facciam. Verso un giornaletto dai più bei color. Troveremo gli indian, forse qualche pesce can. Ma saremo protetti dai cowboy nel paese di Paperino. Sopra un macinino Paperon dei paperoni fa un discorso là per là. Veda veda così vicino, insieme a gas e jack, combino un patatrac nel paese di Paperino. Come avete sentito, si tratta di tutti i vecchi amici. Sono gli stessi che quando vi addormentate con il giornaletto in mano vi fanno vigile nel regno dei sogni. Oh, scusate un momento. Cosa c'è, Paperino? Ah, ho capito. Il nostro simpaticone dice che sto chiacchierando troppo. E va bene. E allora, musica! Guarda qui, guarda là, c'è un quartier della città dove vivo un tamarindo e cirillin. Voi potete incontrar Sor Tamburio negli affari e Bonaventura Coniglion. Nel paese di Paperino non c'è bufalo Bill, ma il grande Pecos Bill. Ogni piano gli fa l'inchino, poi se la squaglia pian pianino. Delle praterie del Texas, vecchi cavalier del cielo, i piani ai ai ai. Questo è il sogno d'ogni bambino, in mezzo a quei cowboy vorreste starci voi nel paese di Paperino. Ormai è l'alba e mentre i lupi sulle rocce lanciano nel cielo ghiaccianti tutti i personaggi del nostro cuore rientrano nelle pagine dei vostri giornaletti. Per una notte sono stati tutti amici, Paperino lo zio Paperone, Giravolto e Ciclamino e perché noi terribili indiani Omacas e Pecos Bill. Domani al vostro risveglio riprenderanno le loro gesta. Nel paese di Paperino, Paperino, Paperino.